Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Il 19 e il 20 aprile scorsi si è svolta a Roma la seconda conferenza nazionale sulle rinnovabili termiche, ne avevamo anche parlato. Durante questa conferenza sono stati presentati una cinquantina di case study e si è anche discusso sia del potenziale di queste fonti sul territorio italiano, sia dei meccanismi di finanziamento possibili. Nelle prossime settimane ci occuperemo di alcuni dei risultati emersi da questi due giorni e cominciamo questa sera con un primo studio svolto dal REF. Il REF è un istituto indipendente di ricerche per l'economia e la finanza. In linea con noi c'è Tommaso Franci, ricercatore di REF, nonché ex assessore all'ambiente della regione Toscana, per cui uno insomma che ha toccato anche tutte le difficoltà politiche della gestione di queste tematiche. Buonasera Franci. Buonasera a voi. Allora, alla conferenza voi avete presentato uno studio che fa un po' il punto sull'attuale produzione di energia termica da rinnovabili in Italia, ma soprattutto su quella che potrebbe essere la composizione, per così dire, dei vari contributi che ci permetterebbero di arrivare a questi fatidici 10,5 megatep. Il megatep è un'unità di misura tipica, diciamo, in questo settore, vuol dire milioni di tonnellate equivalenti di petrolio. Questi 10,5 megatep, dicevo, che noi stessi, cioè noi come Italia, con il Piano Nazionale di azione ci siamo dati come obiettivo al 2020. Fin qui tutto bene, giusto? Esatto. Allora, quali sono i macro settori che possiamo racchiudere sotto questa etichetta rinnovabili termiche? Cominciamo da qui. Beh, sì, prima di tutto diciamo le tecnologie sono il solare termico, cioè diciamo quei pannelli che servono per fare l'acqua calda, poi diciamo la termica più antica del mondo, cioè le biomasse, la legna, che può avere vari modi d'uso, come ad esempio il pellet, quindi non solo la legna a pezzi ma è cippato. Poi c'è una tecnologia meno conosciuta, che sono le pompe di calore di vario tipo, che assorbono una certa quantità di energia dall'aria o anche dalla terra e la restituiscono, diciamo, concentrata ad una temperatura utile per i servizi. Cioè, come se, diciamo, per esempio, per il riscaldamento viene rubato calore dall'aria esterna e viene utilizzato per riscaldare l'interno della casa, esatto. Per fare un esempio. E poi c'è la geotermia, diciamo, tradizionale, anche qui può essere o acque calde, naturali, sotterranee, oppure ci può essere anche addirittura il vapore dei soffioni della zona, certo, dell'Arderello, anche questo può essere utilizzato. Queste, diciamo, sono le tecnologie. La più importante quantitativamente è la biomassa, poi, diciamo, sicuramente molto importanti in termini quantitativi sono le pompe di calore e il solare termico. Ecco, allora quantitativamente appunto proviamo a costruire questi 10,5 megatep. Beh, diciamo che partiamo circa da 3-4 megatep che sono già contabilizzati, e questa sottolineatura è molto importante perché una gran parte dei consumi di legna oggi appunto non viene rilevata, sì, dalle statistiche. In altri paesi questo viene fatto, verrà fatto anche in Italia, e questo farà emergere un volume molto importante, almeno 2 megatep di consumi di legna che oggi non vengono contabilizzati. Poi abbiamo una quota di queste fonti rinnovabili che oggi, come si dice in gergo degli economisti, sono già competitive. Basta pensare a tante pompe di calore che vengono vendute senza incentivi, anche a tante stufe a pellet che vengono vendute senza incentivi, e questa è la seconda componente. Una terza componente è costituita da una novità che è stata introdotta in Italia con il recepimento della direttiva, e che sono gli obblighi di integrazione delle rinnovabili negli edifici nuovi o fortemente ristrutturati. Sì. In questo caso, essendoci un obbligo, evidentemente anche qui non c'è bisogno di elargire incentivi, tanto uno lo deve fare, esatto, lo stesso. C'è da sottolineare che si poteva fare di più, sì, in particolare l'obbligo di un 50% di calore prodotto da rinnovabili nei nostri edifici sarà in vigore solo dal 2017. Quanto resta da incentivare quindi? Poco? Diciamo che resta circa un 30%, 1,8-2 megatep di rinnovabili che richiedono invece il sostegno delle incentivazioni. Però quello che si chiama differenziale di costo rispetto alle tecnologie convenzionali, la più diffusa è sicuramente la caldaia a gas naturale, sono differenziali abbastanza piccoli, quindi non è necessario un aiuto così forte, per esempio, come è necessario nel settore elettrico. Poi dal punto di vista del mercato bisogna qui sottolineare un'altra differenza. Nel settore elettrico il grosso della produzione anche rinnovabile avviene da grosse centrali che vengono realizzate da imprese. Nel caso delle rinnovabili termiche la decisione dell'investimento è delle famiglie o delle imprese. Quindi parliamo di tanti piccoli investimenti che rientrano prevalentemente col risparmio energetico. Giusto? Esatto, in cui la decisione di investimento non è una decisione che viene fatta con la logica, diciamo, di un'impresa imprenditoriale. Certo. E quindi quante risorse servirebbero e in che forma? Beh, diciamo che le risorse che servono, per fare un esempio rispetto al fotovoltaico, noi abbiamo stimato che complessivamente l'onere possa essere di un decimo per un'unità di energia rinnovabile da incentivare. E sempre per parlare di cifre che in questi giorni stanno circolando, si sente dire che il fotovoltaico potrebbe costare non più, secondo alcuni, di 6-7 miliardi all'anno. Per 20 anni. Per 20 anni, esatto. Noi pensiamo che con 7 miliardi di euro si possa contribuire a fare tutta questa differenza di rinnovabili. Quindi, facendo un conto della serva, sono 140 miliardi contro 7 miliardi. È così, esatto, per raggiungere gli, esatto, obiettivi. Grazie Tommaso Franci. Grazie a voi. Ecco, una puntualizzazione prima di chiudere: un'unità di energia elettrica richiede normalmente, per essere prodotta, l'utilizzo di 2,5-2,7 unità di energia termica. Ma certo, questo non colma il rapporto tra le richieste di incentivi da parte del mondo del fotovoltaico e delle termiche, che sarebbe, secondo questo studio, di circa 1 a 20. Questo è davvero tutto. Buona serata, noi ci risentiamo domani.